Il diario di Q. Viterbo, 4 maggio 1548. Frate Michele d'Este, priore del convento di San Bonaventura, presso Rovigo, ascoltato dagli inquisitori della Serenissima in data 12 marzo 1548, in merito all'attività di un certo frate Pioppo, sospettato d'eresia. Un nome e un cognome. Adalberto Rizzi, francescano del convento di San Bonaventura, scomparso alla fine di gennaio del 1547, insieme a un ospite tedesco, un pellegrino che ha detto di chiamarsi Tiziano, il quale lo avrebbe ribattezzato con l'acqua di una pozzanghera. Altre notizie pervenute dagli inquisitori veneziani. Vicenza, 17 marzo 1548. Arrestati un falegname e un oste, sorpresi ad abbaiare durante un battesimo. Interrogati su chi li avesse convinti che battezzare i neonati è come lavare i cani, hanno risposto: uno che professa la fede d'Allemagna e lo fa con autorità, perché tedesco. Padova, 6 aprile 1548. Lo studente Luca Benetti sostiene pubblicamente che il battesimo è inutile per le menti che non possono conoscere i misteri della fede, e specialmente quello del beneficio di Cristo verso tutta l'umanità. Sentito in merito alle sue affermazioni, sostiene gliele abbia suggerite un letterato tedesco di nome Tiziano. Elementi del quadro. Rovigo, Bassano, Vicenza, Padova. Un percorso, un cammino, un viaggio? Oppure un semicerchio, il cui centro è indubbiamente Venezia? Un tedesco. Un tedesco la cui presenza forse spiega l'origine dell'idea del secondo battesimo. Un anabattista? Un tedesco che dice di chiamarsi Tiziano, regala copia del beneficio di Cristo e ribattezza i villici. Tiziano il tedesco. Il fondaco dei tedeschi a Venezia. Gli affreschi dipinti da Giorgione e dal suo allievo Tiziano sulle pareti esterne del fondaco. Il nostro anabattista è un tedesco che vive a Venezia, come dire un ago in un pagliaio. 5 maggio 1548. C'è un tempo e un luogo per cui ogni cosa abbia un inizio e una fine. E poi ci sono cose che invece ritornano. Salgono a galla dagli anfratti dell'anima come pezzi di sughero sulla superficie di un lago. Quasi minacce oscure, o ragioni per vivere, vendette, frammenti, schegge. C'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace. C'è un tempo in cui ogni cosa può essere fatta, quello in cui non hai scelta, perché improvvisamente il coraggio e la foga di 20 anni scompaiono sotto le rughe del volto. E cominci a temere l'arrivo di un messaggero. Quale sarà il prossimo incarico? Temo il disgusto che percorre la strada stretta dallo stomaco alla mente. Qualcosa da nascondere dietro l'autorità delle missioni compiute, dietro l'esperienza, e che però non può sparire, anzi, diventa più forte ogni giorno, per quanto vorresti ricacciarla giù, nel fondo, incapace di trovare un motivo, l'appiglio di 1000 volti, di uomini e di donne mandati all'inferno. Poi, un bel giorno, ti scopri a dirti che non sei stato tu, che non hai impugnato tu la spada, e allora capisci d'essere finito.